Let's go. Vado? Live. Siamo live. Ok. Allora, bentornate, benvenute a Cabaret Voltaire, per chi non fosse stato qua la volta scorsa. E questa sera sono qui con due mie amiche che ho invitato perché mi piacerebbe parlare con loro di desiderio. Allora, abbiamo alla mia destra Camilla. Ciao. Ciao Camilla. Allora, Camilla la conosco dall'università. Ci siamo conosciute in quel di Via Noto, o meglio, Via Ignoto, forse meglio dire. Abbiamo studiato tutti e due beni culturali in quel luogo ameno, assurdo, in fondo a Via Ripamonti. Sì, un po' dimenticato da tutti gli dèi, penso. Esatto, dove ci sono le capre e le pecore. Forse adesso l'hanno un po' modernizzato e c'è tipo un campo da bocce per gli anziani. Beh, vabbè, non male. E niente, siamo rimaste amiche da allora e adesso Camilla è una bravissima illustratrice, tanto che abbiamo ideato insieme il logo di Cabaret Voltaire, che poi hanno sviluppato, cioè che ha sviluppato poi la grafica di Exalge. E poi Maddalena. Ciao. Maddalena invece la conosco dal liceo Beccaria, meraviglioso. E ci siamo conosciute al corso di teatro e niente, siamo rimaste legate da allora. Maddalena invece è una performer danzatrice, nonché insegnante di tessuti aerei, che oggi mi ha distrutto fisicamente la posizione, la forma scorpione. Ho capito che mi ha tipo tagliato la coscia in due oggi. Un'ottima pubblicità, se posso dire. Vero, consiglio sì. Vivamente, Maddalena è per bravissima. Per chi ascolta, dai, no, non so cosa dire, i tessuti sono bellissimi. Bellissimi, divertentissimo, no, non pensavo, ci vuole una grande forza di braccia, però divertente. E anche studiosa di filosofia, giusto? Oh yes. Nonché mamma di una bambina che amo tantissimo. E niente, le ho invitate questa sera perché avevo voglia di parlare di desiderio, in quanto un mio amico un po' di tempo fa mi ha regalato questo libro che si chiama Ripartire dal desiderio di Elisa Kuter, la quale fa una bellissima analisi sul tema del desiderio, parlandone in relazione al fatto che è molto difficile entrare in contatto con i propri desideri, proprio perché siamo spesso, come dire, condizionati da sovrastrutture di giudizio sociali di vario genere, per cui diventa difficile entrare in contatto con quello che sentiamo profondamente. Lei poi è una femminista e quindi fa un'analisi anche sulla questione di genere, quindi analizzando soprattutto il fatto che è difficile per le donne in particolare anche esprimere liberamente i propri desideri, che consiglio, molto interessante. E c'è a un certo punto una frase che mi è rimasta impressa e che mi ha spinto a farmi queste domande sul desiderio, che vi citerei, che recita così: com'è possibile che nel capitalismo il desiderio sia diventato parte dell'ordine costituito? Ogni desiderio piuttosto è un disordine. Mi trovo a dire, se è davvero tale, il desiderio è qualcosa che scompagina tutte le carte in tavola, che manda all'aria i progetti, che fa problema e crea conflitto. E dopo aver letto questa frase, appunto, ci ho un po' ragionato e ho pensato, ma effettivamente forse è difficile entrare appunto in contatto con i propri desideri. E tanto che, partendo da questo spunto, ho parlato con varie amiche e amici di questa cosa e sono uscite fuori, diciamo, idee diverse su quello che le persone poi associano al desiderio, però è stato interessante vedere come effettivamente tutte e tutti abbiano un po' faticato a darmi questa risposta, proprio perché non è così scontato, cioè non è come dire qual è la tua squadra preferita, che ovviamente è il Milan. Ma cosa reduce da questo derby? Giornata adatta per dirlo. Esatto. Però insomma, al di là di questo, effettivamente forse non è così scontato dare una definizione di questa cosa. E quindi niente, mi piaceva un po' confrontarmi con voi su questa tematica e quindi forse chiederei a Cami un po' cosa ne pensi tu, o se sei d'accordo con quello che ho detto, insomma. Sì, vabbè, innanzitutto ciao a tutti e a tutte, grazie Laura per avermi invitata. Ciao, sono May. Un po' emozionata, quindi spero di non sbagliare i tempi verbali. Comunque, beh, io il libro non l'ho letto, però effettivamente rispetto a quello che hai appena detto mi trovo molto in accordo. Infatti, quando mi hai posto la domanda cos'è per te il desiderio, inizialmente mi sono trovata un po' spiazzata, perché non è una cosa su cui mi sono mai troppo interrogata. Riflettendoci poi ho capito che per me il desiderio è come se fosse una sorta di sfumatura dell'ambizione. Cioè, le cose che io desidero le sento come degli, boh, chiamiamoli obiettivi, che però sono comunque concreti nel senso di raggiungibili. Boh, sempre per fare appunto un esempio chiaro, un desiderio che ho è avere un mio studio prima o poi, insomma, trovare un posto mio dove poter disegnare, dove poter fare i miei corsi, o piuttosto che avere una stampante 3D, ecco, però... Che bello! Sì, sarebbe incredibile! Però ecco, lo sento come qualcosa che posso raggiungere, chiaramente non è che cade dal cielo, però è qualcosa che vedo e per cui so di poter muovermi verso, lavorare per. Sì, un po' come un motore. Esatto, un po' un'energia che mi spinge a raggiungerlo. Ma infatti devo dire che nella mia indagine c'è stato un mio amico che si chiama Nicolò, il quale mi ha proprio detto questa cosa, cioè che secondo lui... più che l'obiettivo, no? Perché poi magari si associa il desiderio a una cosa o comunque a un raggiungimento, è il viaggio che lo porta ad essere quello che lui desidera, cioè il percorso che sta dal avere, essere quello che si desidera al effettivamente raggiungerlo, quello da cui poi si impara di più e che forse rispecchia per lui effettivamente in fondo il desiderio, al di là poi dell'outcome che ne viene. E devo dire che sempre facendo le mie indagini c'è stato anche uno scrittore che si chiama Ian McEwan, che è uno scrittore britannico, insomma famoso perché per esempio ha scritto nel 2001 un libro che si chiama Espiazione, che in realtà è una sorta di giallo, direi, che racconta di questa ragazzina che incolpa un uomo di un fatto gravissimo, rovinandogli un po' la reputazione, insomma, poi non vi faccio spoiler, però è interessante, dicendo che in letteratura, per esempio, si crea proprio questo gap, cioè nel senso che non si riesce molto a rendere l'idea del desiderio perché si... sembra sempre qualcosa di irraggiungibile, al contrario di quello che appunto dici tu, no? Cioè, non so, se pensiamo a Dante che si innamora di Beatrice e non la raggiunge mai, o Petrarca per Laura, cioè questi amori un po' impossibili. E invece diceva, nella concretezza invece dei nostri giorni, il desiderio può anche essere qualcosa che invece unisce e crea un senso di comunità, proprio perché siamo tutti spinti da uno stesso desiderio o da una stessa passione comune che ci porta a creare magari degli eventi comuni come i festival, che possono essere di musica, di letteratura e via dicendo, e siamo tutti accomunati dall'idea, dal desiderio di come dire, vivere insieme le proprie passioni, che effettivamente è una cosa interessante, no? Cioè invece di associarlo a un qualcosa di concreto diventa proprio quel percorso più astratto quasi delle passioni che ci spingono a fare delle cose, essere un motore. E niente, quando ho chiesto poi a Camilla infatti di rendere anche in musica la sua idea di desiderio, mi ha proposto questo pezzo di Bruno bellissimo, che devo dirvi io non conoscevo. Mitico Bruno bellissimo, per chi non lo conoscesse, un grande. Allora, sentiamolo. Beh, la canzone si chiama Desiderio, ecco. Appunto. parlare con te. Eccoci. Vabbè, ho proposto questa canzone, vabbè, innanzitutto perché mi piace molto. Bruno l'ho scoperto in realtà al festival Il Miami dell'anno scorso, prima non avevo assolutamente idea di chi fosse. Però vabbè, da allora sia io che i miei amici ci siamo un po' innamorati della sua musica. Aneddoto divertente, così, per creare un po' di fun fact. L'ultimo concerto a cui sono stata... non mi ricordo neanche più, forse a febbraio, praticamente finito il concerto, era al Bico, che ha un palco molto basso. Vabbè, io in balia della foga del momento ho pensato di salire sul palco, entrare nel retro, insomma infilarmi nel camerino per scroccare malamente un autografo al buon Bruno, che me l'ha fatto su un piatto di carta, perché ovviamente ero totalmente impreparata. Ma devo dire, ottima esperienza, consiglio. Vita da gruppi di Camilla. Esatto. Allora, Maddi, passerei la palla a te e chiedendoti cosa ne pensi tu del desiderio, o insomma se sei d'accordo con quello che abbiamo detto. Allora, io sono d'accordo parzialmente, diciamo così, quando è stata... Vuoi provocarci? Sì, voglio provocarmi. Quando, ecco, mi è stata posta la domanda, che cos'è per me il desiderio, mi è venuto da chiedermi, ecco, perché una parte di me legava il desiderio ai sogni, e perché contemporaneamente, però in realtà, penso che siano due cose molto diverse. E ecco, io sento che, ecco, diversamente un po' da quello che ho sentito dire a Ami, è che è qualcosa che per me adesso è una questione molto grossa. Cos'è per me il desiderio, cos'è il mio desiderio? Questo perché mi sono resa conto che per me, se il sogno da una parte è qualcosa che io sento proprio fisicamente abitare più nella mente, e quindi giocare più con l'immaginazione o comunque con un piano un po' più staccato dalla realtà, quando penso al desiderio invece sento che è collocato proprio da un'altra parte del mio corpo. Stiamo parlando della pancia, stiamo parlando del ventre, e essendo si vede, collocato si vede lì, che è una performer che fa danza. Essendo in questa zona, io sento che per me è proprio qualcosa di realissimo e di molto problematico, perché trattandosi proprio di quello che io sento, voglio, ciò di cui ho bisogno, è qualcosa che continuamente deve andare un po' a volte a scontrarsi o a incontrarsi con quello che è la pancia degli altri. E quindi, appunto, rispetto alla citazione che hai fatto all'inizio del testo, che neanch'io conosco, è una grossa questione per me, è il desiderio legato proprio all'ascolto di se stessi, all'affermazione di sé, quindi per me, insomma, tirando in ballo il genere, ci sono scontri sicuramente fra quello che posso sentire io in quanto persona al di là del genere, quello che posso desiderare io in quanto donna, quello che posso desiderare io in quanto, appunto, dicevamo all'inizio, anche in quanto mamma. Quindi ci sono un po' tutte queste sfumature di desiderio che però per me, ecco, riguardano proprio un discorso concretissimo, quotidiano, e molto complesso, sì. Ma nel senso che lo leghi a delle emozioni, o cioè non a una cosa necessariamente concreta, ma a una cosa che senti? No, lo leggo sì a quello che sento, ma molto concretamente, cioè è proprio comunque un motore, una spinta, ma che proprio parte dal dentro. E mi rendo conto che penso che non siamo troppo abituati ad ascoltarci, non lo dico per fare la bacchettona, ma proprio un po' come, ahimè, constatazione dei fatti. E quindi quando un desiderio si presenta, dal mio punto di vista molto fisico e molto forte, a volte è proprio difficile capirlo, seguirlo, anche solo vagamente rendersi conto di come fare a seguirlo. E quindi sì, è un po' proprio la terra del confronto concreto con gli altri, ecco. No, assolutamente, infatti forse una delle risposte in cui io mi sono ritrovata di più delle persone a cui ho chiesto che cos'è il desiderio è stata quella della mia amica Judy, che forse un po' riprende anche quello che dice Elisa Kuter, nel senso che si lega a questo discorso della difficoltà della sovrastruttura che ci condiziona, e mi ha scritto una risposta che citerei letteralmente, perché penso che le sue parole spieghino benissimo questa mia idea, che credo che un po' rispecchi anche quello che un po' tu stai dicendo. Infatti lei dice che per lei il desiderio è libertà, è riuscire ad ascoltarsi, accedere a parti autentiche di sé, è una spinta vitale, ha bisogno di speranza e può uscire limpido quando si grattano via tutte le sovrastrutture e credenze che li soffocano e li condizionano. Quando si crea un legame intimo quindi con i propri desideri e ci si permette di validarli e darli valore, si crea anche un legame più vicino a se stessi. Il giudizio può schiacciarli, sia il proprio che quello degli altri. È un esercizio di libertà riuscire a connettersi con loro. È antipatriarcale, anticapitalista poterli ascoltare e seguire. È anche un grande privilegio che può permettersi chi ha risorse economiche e sociali e che vive un corpo privilegiato. Anche l'identità maschile cis bianca notoriamente privilegiata può riscoprire attraverso la decostruzione della propria identità, del proprio ruolo, quanto il sessismo reprima i condizioni e i desideri, attraverso la riscoperta di essi, e può vivere quindi più libera. Io penso che questa cheat in qualche modo descriva un po' l'idea del desiderio come libertà, che sicuramente è molto difficile in qualsiasi società, particolarmente anche la nostra, e anche per noi come donne, penso. Nel momento in cui le ho chiesto poi anche a lei di citarmi un brano musicale che rispecchiasse un po' come si sente lei quando si sente libera, e quindi anche legato all'idea del desiderio, lei mi ha detto La nostra pelle di Ex Otago, e quindi adesso forse ve lo farei ascoltare, se lo trovo. Beh, comunque risposte bellissime, cioè in confronto la mia è veramente una noia. Svegliarsi tutti i giorni, lavarsi i denti, guardarsi allo specchio, i lineamenti, e scoprire che sei proprio tu la persona che ti ha fatto ridere di più, e scoprire che sei proprio tu la persona che ti ha fatto piangere di più. Un buon amico, lo stronzo che ti ha mentito, sì, sei proprio tu. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a giocare. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Prova a non muovere un muscolo adesso, se può commuovere un minuscolo gesto. Io al crepuscolo esco e quando torno è relativo al concetto di presto, se giorno è relativo al contesto che è intorno. Quasi tutto è relativo tranne il mio riflesso, come una lente un obiettivo cui vivo attraverso. Anche nolente ci convivo lo stesso, vorrei lasciarmi alle volte ci penso. Ma questa pelle è un recinto e un confine, è un labirinto e l'inizio e la fine. E quel vestito un po' troppo leggero e un po' rotto, che diventa tutto se hanno perso i tuoi bagagli all'aeroporto. E a volte è più difficile da sobrio, a volte l'amor proprio lascia spazio a un odio viscerale. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a giocare. A volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con chi altro andare. A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare. Anche se tra te e te non c'è comprensione, anche se non hai tempo di starti ad ascoltare, anche se una soluzione non ce l'hai, tu non tradirti mai. La la la la la la, la. Dove pensi di scappare ormai sei circondato. Questo è l'unico compagno di viaggio, c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Questa è l'unica che hai. La nostra pelle è un quadro. Dove pensi di scappare ormai sei circondato. Questo è l'unico compagno di viaggio, c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Interessante comunque che nessuno di voi due, anche se è un giudizio, ma abbia associato il desiderio alla cosa che forse di più la nostra società ci spingerebbe a fare, ovvero un desiderio passionale. Sessuale. Sessuale, esatto. Ma allora, come ti dicevo, effettivamente quando mi hai posto un po' la domanda mi sono interrogata, beh, anche su questo. Personalmente, non so, anche dovuto alle esperienze passate che io ho avuto, non lo so, anche nel recente, non lo so, negli anni passati, ecco, non troppo lontani, vado un po' in sbatti con questo argomento, non so se si è capito o notato, è difficile per me, ecco. Non sempre sono riuscita a sentire bene il desiderio passionale, ed è una cosa su cui non sempre anche mi sono interrogata a dovere, probabilmente. Non che sia sempre stato così o che sia ancora così, però sicuramente apre un po' una sfera ignota anche il non sentire un determinato desiderio di cui, ecco, ancora non so bene dare risposte. Beh, allora, sicuramente cioè, potremmo fare una puntata dedicata a questo praticamente, penso che apra molte parentesi, ma si lega sicuramente anche al discorso del sentirsi liberi, no? Cioè anche in quella sfera, cioè anche nella sfera sessuale, intima, passionale, ci sono tantissime sovrastrutture che, non dico che impediscono di seguire il proprio desiderio, ma Lo condizionano. Sì, che lo condizionano tantissimo, e che condizionano anche noi nel rapporto con gli altri. Per questo anche mi piaceva la frase di Giuditta, perché dice anche avere un corpo privilegiato, nel senso del magari anche sentirlo, cioè sentirsi bene nel proprio corpo, e quindi anche in quella sfera essere liberi di sperimentare, di lasciarsi andare a sentire liberamente quello che desideriamo. Sì, infatti io in realtà ho collocato questo desiderio proprio nel ventre, forse dovevo citare anche il basso ventre. Non era abbastanza chiaro, effettivamente. Non era abbastanza chiaro, comunque. Sicuramente entra in ballo, anzi tantissimo, penso che molto parta proprio da desideri fisici legati a una certa passione, parlo quantomeno per me. Penso che appunto parlavo del fatto che i desideri sono qualcosa di estremamente concreto, secondo me, rispetto a quello che hai detto di Judy. Sono molto d'accordo, proprio perché, ecco, io intendo, quando si parla di libertà, la intendo sempre come qualcosa di estremamente partecipato, e quindi il desiderio penso che sia quel qualcosa che ci chiede di partecipare davvero, ecco, a quello che ci succede attorno, perché dobbiamo partecipare in primis con noi stessi, in noi stessi, e quindi poi comunicare verso l'esterno e scendere continuamente a patti, ecco. È qualcosa di molto concreto anche il desiderio sessuale, fisico, perché ognuno ce l'ha incredibilmente diverso. C'è chi associa molto il desiderio alla sessualità, c'è chi meno, ma ognuno è fatto come è fatto, e bisogna continuamente scendere a compromesso con questo. Poi penso che ci siano, insomma, tutti questi piani per cui, non so, ci sono dei contesti, delle situazioni, delle persone con cui ognuno di noi si sente molto libero di esprimere nell'ambito sessuale dei desideri che la nostra cultura chiama un po' proibiti. Però ecco, magari per qualcun altro il desiderio proibito è, non lo so, mangiarsi il calippo in spiaggia, in santa pace, senza che questo necessariamente abbia a che fare col sessuale. Quindi sì, io penso che lo tiro in ballo inevitabilmente, però che riguarda proprio la concretezza anche del fatto sessuale in sé. No, sì, sono molto d'accordo. Infatti penso che, penso che imparare a comunicare anche nell'ambito sessuale sia importante, e comunque sia una scoperta per se stessi e l'altro o l'altra. E su questo tema, infatti, volevo dire questa piccola curiosità, che il primo, in quanto io studiosa d'arte, lo dico per i miei interessi, che il primo artista che ha fatto, diciamo, ha rappresentato delle posizioni sessuali è stato un collaboratore di Raffaello, quindi siamo nel 1500, che si chiama Giulio Romano, che forse è noto ad alcuni per il fatto che ha affrescato Palazzo Te. Infatti lui è diventato pittore di corte di Federico II Gonzaga, e che lo ha ingaggiato per affrescare il Palazzo di Mantova. E la sala più famosa che consiglio a tutti di visitare è la Sala della Caduta dei Giganti, che è stupenda. E a un certo punto della sua carriera fa questi 16 disegni, queste 16 immagini che rappresentano per la prima volta proprio quel proibito, quelle posizioni sessuali che nessuno aveva mai rappresentato prima, no? Un po' espressione, come direbbero i surrealisti, del nostro desiderio più intimo, e che hanno poi ispirato questo incisore che si chiama Marcantonio Raimondi, il quale poi ha effettivamente redatto un libro sulle posizioni sessuali e che si è ispirato proprio a questi disegni, e che trovo interessante perché comunque l'arte ha sempre, è come se, io l'associo molto anche a un mondo che proprio perché è in contatto con le nostre emozioni prevalentemente, è uno spazio dove più liberamente forse ci si può esprimere, e quindi c'è stata tutta una corrente d'arte, soprattutto tra le due guerre nel Novecento, che si è concentrata su questo, se penso ai surrealisti, se penso ai Dada, che hanno ispirato anche il nome della radio. Sicuramente si sono concentrati a rappresentare quella parte più intima, più animalesca, se vogliamo dire, no? Di noi, e anche provocatoria, che poi ha forse dato, ha ispirato poi chi l'ha osservata, chi ne ha fruito, una liberazione maggiore dalle sovrastrutture sociali, tradizionali, religiose, via dicendo. Dicevo questo per curiosità, e quindi forse prima di chiudere vi farei sentire forse il pezzo che associerei di più all'idea del desiderio in senso passionale, che quale potrebbe essere se non Ornella Vanoni. Sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te. ti darò. Balbetti, l'aspetti una mossa guardi, da me. Dillo ancora. Coraggio, mettiamoci in viaggio e vadiamo da questo parcheggio di mille perché. Tu. C'erano in me. Ti voglio, mi piace, mi spoglio. Dillo ancora che ti voglio. Mi piace, immagino i baci. Cosa importa volere sapere domani cos'è. Allora, chiuderei dicendovi, cioè mi faceva piacere raccontare di questa realtà milanese che si chiama Libreria del Desiderio, lato D, che ha recentemente aperto in zona Sarpi, in via Signorelli. Ho intervistato Marta, che è una delle, diciamo, fondatrici dello spazio, e quindi mi faceva piacere chiudere raccontandovi un po' anche la sua idea di desiderio, e cioè gli ho chiesto, no, nella mia indagine sul desiderio, cosa ti ha spinto a chiamare la tua libreria Libreria del Desiderio, e lei mi ha risposto dicendomi che si è ispirata alla derivazione latina del desiderio, e quindi dividendo la parola da de e appunto sidus sideris, che significa stella. Questo perché lei dice che desidera, e da cui desiderio, significherebbe letteralmente condizioni in cui sono assenti le stelle. Questo perché nel momento in cui si tende al desiderio, e quindi in questo senso alle stelle, e ci si arriva, il desiderio perde di concretezza, cioè nel momento in cui effettivamente realizziamo il desiderio finisce. Questo è il motivo per cui noi non a caso esprimiamo un desiderio con le stelle cadenti e non con le stelle, diciamo, nel cielo. Ora ho capito tutto. No, ero ora seria. Tutto, cioè, ha senso. No, ora tutto ha senso. Quindi, per Marta, il desiderio appunto è trasformazione in atto rispetto a qualcosa che ci appartiene, che ci sposta, no? E quindi lei associa l'idea al desiderio, e quindi in questo senso forse l'ispirazione del nome per la sua libreria a controcultura, quindi qualcosa che appunto porta a un cambiamento. E questo perché appunto lato D in qualche modo vuole rappresentare uno strumento in più per affrontare tematiche legate ovviamente al desiderio, e non solo, insomma, alla libertà, al rispetto, alle fantasie, eccetera eccetera, in un modo molto libero e consapevole. E niente, quindi spero che andrete a visitare questo posto bellissimo e da queste ragazze meravigliose che hanno fondato questo spazio, e su queste note vi saluto e ci vediamo a maggio con una sorpresa. Non avremo un tema, ma il tema sarà una band. Ah, quasi freestyle. Attenzione. Va bene, e niente, buona serata a tutte e a tutti. Grazie, ci vediamo Lori. Presto. Grazie mille. Adesso forse chiamo Poli, il mio amico radiofonico, per aiutarmi a chiudere. Ciao, intanto Poli. Continueremo a dire cose a caso. Poli, ascoltate Radio Exalge e ascoltate Battito Madre. Ascoltate, grazie, grazie anche agli Exalgini, ai mitici Exalgini. Potremmo fare tipo un po' di, com'è che si dice, ASMR. Grazie a voi. Vuoi dire qualcosa sul desiderio, Poli? Coli, cosa desideri ora? Poi diccelo. Ti libero di non rispondere. Penso che ce ne andiamo. Ieri si è avverato un bel desiderio, quindi... Vaffanculo. Basta così, dai. Per oggi i desideri sono... Inter, esatto. Maledetto. Ah, te l'ho detto che era la puntata sbagliata per dire che ti fai Milan. Un po' di interisti, Exalge. Parlavamo di stelle. Qualcuno non ha così tante stelle qui dentro. Ah!